Verrà. Usare si sa, parlando molta prudenza. Il tuo capitano salò ad ascoltare questo boom dell'impazienza. La fanciulla che va a sciare dirà che un campione mostra chi fa oh boom, oh boom, oh boom. Diri la ru la ru la questa qua. Da.